Intorno a quel tempo, il giovine Steven empì tutte le coppe che erano vuote, in cotal guisa che ben poco ne sarebbe rimasto se i più prudenti non avessero ostato alle mosse di lui, che molto s'adoprava e che, pregando secondo le intenzioni del sommo pontefice, chiese loro di brindare alla salute del vicario di Cristo, il quale è, dicea, essere anco vicario di brei. «Beviamo or dunque», diss'egli, «in questo nappo e tracannate di questo idromele, che non è davvero particola del mio corpo, ma incorporamento dell'anima mia. Lasciate frangere il pane a quei che vivono di solo pane, e non tema che ciò gli manchi, perché ciò vi sarà di conforto più che l'altro non vi smaghi. Vedete mo'», ed ei mostrò loro le lucenti monete del tributo e biglietti d'orafo del valore di 2 lire sterline e 19 scellini che egli aveva avuto, diss'egli, per una canzone da lui composta. E tutti ammirarono al vedere le anzidette ricchezze nella impecuniosità preesistente. Ei favellò di poi come segue: «Sappiate or dunque tutti», diss'egli, «che le ruine del tempo edificano le magioni dell'eternità. Che vuol dir ciò? Il vento del disio fa avvizzire il biancospino, ma di poi diviene di rovo una rosa sulla croce del tempo. A me attendete. In grembo di femmina il verbo si fa carne, ma nello spirito del creatore tutta la carne che passa diviene il verbo che mai non passerà. Questa è la post-creazione. Omnis caro ad te veniet. Non va dubbio che possente è il nome di colei che ebbe nel ventre il corpo amato del nostro riscattatore, salvatore e pastore. La nostra madre possente e madre molto venerabile a Bernardo dice acconciamente che ha ella una omnipotentiam dei pare supplicem, cioè a dire un'onnipotenza di petizione, perché è ella la seconda Eva e ci ha riscattati, come dice anche Agostino, mentre che l'altra, la nostra progenitrice, cui siamo legati da successiva anastomosi di cordoni ombelicali, tutti ci vendette seme, schiatta e generazione per una meluccia da un baiocco. Ma così ora sta la cosa. O ella, vogliam dire la seconda, lo conosceva e non fu se non creatura della sua creatura, vergine madre, figlia di tuo figlio, ovvero non lo conosceva ella punto e allora è accomunata nel diniego e nell'ignoranza a Pietro il pescatore, che vive nella casa che Giacomino si costruì e, come Beppe il falegname, patrono delle felici dissoluzioni di tutti i maritaggi infelici. Parce que Monsieur le Taxil nous a dit que qui l'avait mise dans cette fichue position, c'était le sacré pigeon. Ventre de Dieu, ant veder transustanzialità, oder consustanzialità, ma in niun caso sub sustanzialità. E tutti allora si scandalizzarono del turpe motto. Una fecondazione senza gioia, diss'egli, una nascita senza doglie, un corpo senza macchie, un ventre senza gonfiezza. Con fede e fervore i fedeli lascivi adorino, tetragoni contrasteremo ed osteremo. Al che Pancio Costello fe suonar la tavola sotto il suo pugno e volle cantare il ribaldo strambotto «Stabù, stabella», che diceva ad una forosetta che un gagliardo fante incinse nella magna e imprese a cantarlo. I primi 3 mesi non stava ella bene, stabù! Allorché la vigilante Quigli, di sulla porta, corrucciata, ingiunse che si tacessero e si vergognassero, né era disdicevole che ella lo rimembrasse loro, sendo che era suo intendimento esser tutto in ordine, in aspettanza del giungere del signor Andrew, poiché nel suo zelo non voleva che alcun frastuono offensivo sminuisse l'onor della sua vigilia. Era un'antica e triste matrona, dal queto sembiante e dal cristiano incesso, in vestimenta nere, che ben s'addiceano alla sua emicrania e al volto pieno di rughe, né mancarono l'effetto le sue rampogne, perché incontanente fu pancio e costello da tutti rimbrottato, ed ei richiamarono il villano, taluni con gentil rudezza ed altri con minaci blandizie, tutti rimostrando: mo ti venga il vermo cane, che diavolo vuole, villico, paltoniere, nato in mal punto, puttaniere, gaglioffo, pendaglio di forca, bastardo, aborto di natura, affinché e si chetasse da quella scimmia avvinazzata maledetta da Dio che egli era. Il buon Sire Leopold, che avea per il suo segnacolo il fiore della quiete, la gentil maggiorana, avvisava anche essere quest'ora la più santa e più degna d'esser tenuta in cotale stima. Di horn nei recessi il riposo regnar dee. A voler esser brevi, questa schermaglia era appena fornita, quando Mastro Dixon di Mary Necklace, ghignando a mo' di piaggiatore, chiese al giovine Stephen qual fosse la cagione per cui non erasi deciso a prendere i voti di monaco, e quegli rispuose: obbedienza nel grembo, castità nella tomba, ma povertà involontaria tutta la sua vita. Mastro Lenian ribatté a questo che erano giunte novelle di questa nefandezza e di come avea sentito bucinare che egli avea conspurcato la lilial virtude di una femmina credulona, lo che era corruzione di minori, e tutti allora vollero intervenire, facendo allegrezza e bevendo alla sua paternità. Ma egli dichiarò perentoriamente che la cosa era propriamente il converso di quanto inferivano, perché egli era l'eterno figlio e sempre vergine, al che la loro allegrezza ancor s'accrebbe, ed essi lo fecero sovvenire di quel suo singular rito nuziale di svestitura e deflorazione delle spose, come sogliono fare i preti nell'isola di Madagascar. La femmina in guisa di color bianco e zafferano, lo sposo in bianco e chermisino, con di gran bruciamenti di spinacardo e di ceri, su un nuziale talamo, mentre i clerici cantano i Kyrie e l'inno Ut novetur sexus omnis corporis mysterium, finché ella non perda colà il pulcellaggio. Egli fe loro parte di un breve mirabil canto di Meneo, di quegli squisiti poeti Mastro John Fletcher e Mastro Francis Beaumont, che trovasi nella loro Tragedia di una Vergine, e fu scritto per una somigliante congiunzione amorosa. A letto, n'era il bordone da suonarsi con armonici concenti sul virginale. Uno squisito e delicato epitalamio della più mollifica suadenza per giovani amorosi, che le odorifere tede dei paraninfi abbiano scortato al quadrupede proscenio della comunione coniugale. Ben appaiati, in vero, disse Mastro Dixon, letificato, ma ormodi, mio giovin signore, meglio sariansi potuti nomare bel montone e giovin fregna, poiché in fede mia da cotal congiunzione molto nascer potria. Il giovine Stephen disse che in verità, se ben rimembrava, avevano essi l'istessa baldracca in uso comune e quella tratta da un bordello onde sollazzarsi, se colei, in amorosi diletti, perché si viveva in pieno a quel tempo e le usanze del loco lo consentivano. Non v'è per l'uomo amore più grande, disse egli, di quel che lo sospinge a dar la moglie per l'amico. Vanne e fa lo stesso. In cotal modo, o parole di senso simigliante, disse Zarathustra, già professore preservativo di lettere franciose all'università di Oxtail, né mai spirò colà uomo cui la stirpe degli umani sia altrettanto debitrice. Fagli entrare uno straniero entro la tua torre, e mirabil cosa sarà se non avrai in sorte il letto di seconda scelta. Orate, fratres, pro meme tipso. E tutte le genti diranno: Amen. Rimembra, o Erin, le tue generazioni e i tuoi giorni di un tempo, come tu hai tenuto in non cale me e la mia parola, e hai ammesso uno straniero alle mie porte, perché i fornicasse sotto i miei occhi, e si impinguasse, e si sollazzasse, come Jasharon. Pertanto hai tu peccato contro la mia luce, e hai reso me, il tuo signore, schiavo dei servi. Ritorna, ritorna, Clammilli, non m'obliare, o Milesio. Perché hai commesso dinanzi a me questa abominazione di avermi in dispregio per un mercante di scialappa e di rinnegarmi dinanzi al romano e all'indo dalla tenebrosa favella coi quali le tue figlie si son giaciute lascivamente? Or dunque mira, o mio popolo, la terra della promessa. Mira, fino da Horeb e da Nebo e da Pisga e dalle corna di Atten, una terra sovrabbondante di latte e pecunia. Ma tu mi hai abbeverato di amaro latte, la mia luna e il mio sole per sempre tu li hai spenti, e tu mi hai lasciato solo per sempre sulla scura via della mia amarezza, e con un bacio di cenere hai tu baciato la mia bocca. Questa interiore tenebrosità, proseguì nel dire, non ha goduto dei lumi del senno septuagintino, e neppure è stata mentovata perché quell'oriente che vien dall'alto e infranse le porte degli inferi visitò una tenebra foranea. L'assuefazione sminuisce le atrocità, come dice Tullio dei suoi cari stoici. Né d'Amleto il padre palesa al prence veruna piaga di combustione. La diafano al meriggio della vita è una piaga egizia che nella notte della prenatività e della postmortuità è il loro verace ubi e quomodo. E siccome i fini e i termini di tutte le cose s'accordano in certo qual modo e misura coi loro cominciamenti ed origini, quell'istessa multiplicita concordanza che sviluppa l'accrescimento dalla nascita, compiendo con metamorfosi retrogressiva quell'impicciolimento ed ablasione verso l'ultimo finché piace a natura, così è del nostro essere subsolare. Le annose sorelle ci traggono in vita. Noi gemiamo, ingrossiamo, ci sollazziamo, ci abbracciamo, ci congiungiamo, ci separiamo. Decliniamo, moriamo, su di noi morti esse si chinano. Dapprima tratto in salvo dalle acque del padre Nilo, di tra i giunchi, un letto di vimini fasciati. Infine, la carità d'una montagna, sepolcreto occulto in mezzo al conclamare del gatto selvatico e dell'ossifraga. E poiché niuno conosce l'ubicità del suo tumulo, né a quali processi di trasformazione saremo per di là introdotti, né se a Tophet o a Edenville, in modo similiante, tutto c'è nascosto. Quando vorremmo vederci a tergo, da qual remota plaga la quiddità della nostra quissità abbia tratto la sua ubiità. Al che Pancio Costello ruggì L'Etienne Chanson, ma altamente ingiunse loro: Mirate, la saggezza si è eretta una casa, quella vasta maestosa volta plurisecolare, il palazzo di cristallo del creatore dove ogni cosa è al suo posto deputato, e un soldo a chi può trovarvi una falla. Mira il palagio eretto dal dedaleo Giacomino, vedi l'orzo in tanti sacchi straripanti in magazzino, nell'eccelso circo dove ha il bivacco Giac Giannino. Un atro schianto di fragore nella strada, ecco, accosto, ululò echeggiante. Alto, a mano manca, Thor tuonò. con ira orrenda lo scagliatore del maglio. Venne ora il temporale che acquetò il suo cuore. E Mastro Lince gli significò di guardarsi dal cianciare e biastimare, perché l'Iddio in persona era corrucciato per i motti sortiti dalla sua bocca d'inferno e il suo dire pagano. E quegli che dapprima con sì gagliarda foga era venuto disfidando, sbiancò in volto, come a ognun fu palese, e s'acquattò, e la sua iattanza per innanzi così soprana s'adimò in un sol punto, e il core gli tremò nella gabbia del petto, nell'assaggiare il fragore di quella tempesta. Altri allora puosersi a uccellare e a ghignare, e Pancio e Costello si strinse di nuovo alla sua cervogia, e Mastro Lenean facea boto di seguirne l'esempio, il che in vero non prima l'ebbe detto che egli il fece. Ma lo iattante burbanzoso messere gridò che un vecchio nemo babbo era in ciampanelle, e che la cosa era gli indifferente, e che non saria stato da meno. Ma questo era solo per dar colore alla sua disperazione, mentre Trepido s'acquattava nell'aula di Horn. Ei bevve in vero d'un fiato, per farsi core in alcun modo, poiché tuonò a lungo, brontolando per tutti i cieli, talché Mastro Madden, essendo divoto talune fiate, si percosse il petto a quello schianto da dì del giudizio, e Mastro Blum, allato al burbanzoso messere, rivolsegli parole rassicuranti, onde addormire la sua gran tema, avvisandolo non essere altro che un confuso frastuono ciò che egli udiva, poiché la scarica del fluido dal tono, aveva avuto luogo, e il tutto nell'ordine di un fenomeno naturale.